Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Olga e Frey. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM e ancora Valun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. E stiamo per lasciarci alle spalle questo caldo aprile in cui vi abbiamo raccontato delle storie importanti legate alla resistenza. In particolare nella puntata della settimana scorsa abbiamo iniziato a parlare di quello che sarà un argomento che augurabilmente ci porteremo dietro per un po' di tempo, ma che potremo portarci indietro soltanto grazie al contributo di tutte e tutti voi, che è quello del discorso sui partigiani stranieri. Abbiamo dedicato la nostra puntata scorsa ai partigiani di cittadinanza straniera, stranieri residenti in Italia, ex combattenti di eserciti e dell'esercito alleato che erano fuggiti, prigionieri che erano fuggiti e si erano riversati nella resistenza, e questo ci ha detto perché non continuare a parlare, non continuare a recuperare queste storie di cui spesso non si sa troppo, spesso infatti si dimentica. A questo proposito abbiamo lanciato anche sulla nostra pagina Facebook, caso S-Valun On Air, una campagna che è iniziata proprio nella giornata del 25 aprile, in cui andando avanti nel corteo ci siamo fermati di fronte all'ex infermeria partigiana di via Andrea Costa, in cui la targa che si può trovare all'altezza del numero 73 o 75 ricorda che all'interno di quell'infermeria, nel corso di una delle battaglie della resistenza bolognese, sono caduti due partigiani stranieri, un olandese e probabilmente un sovietico. Quindi la nostra campagna è aperta, aspettiamo suggerimenti. Chi conosce delle storie di partigiani e partigiane stranieri che hanno combattuto nella resistenza italiana, ce le invii, facendo riferimento naturalmente al nostro sito www.radiovallun.info. Grazie Jacopo per averci ricordato questa call su Facebook, ma noi oggi restiamo in tema, chiaramente perché è ancora aprile, ma ci spostiamo di qualche chilometro verso la Via Emilia. Parliamo dei partigiani modenesi e in particolare dei GAP, quelli della bassa modenese, che hanno avuto un ruolo fondamentale nella liberazione della città della Ghirlandina. Chi sono i GAP? I GAP è l'acronimo di Gruppi di Azione Patriottica, diciamo che sono una squadra speciale dei partigiani, molto diversi dai partigiani che siamo abituati a conoscere noi, cioè quelli che combattono in montagna, perché i GAP per esempio sono in città, sono una specie di tiratori scelti, sono molto più abituati degli altri alla clandestinità, non tutti possono diventare GAP perché ci vuole della tecnica appunto. Hanno anche delle regole molto più ferre, se possiamo fare una gerarchia di regole dei partigiani, perché i GAP non si conoscono tra di loro, nel senso si conoscono solo i loro nomi di battaglia, nessuno conosce i nomi di battesimo, perché essendo in pochi e poco sostituibili in quanto specializzati, se qualcuno avesse parlato avrebbe fatto scoprire anche gli altri e la cellula sarebbe praticamente scomparsa, perché non c'erano molte riserve, non c'erano molti gappisti. Accanto ai GAP, che sono soprattutto nelle grandi città, quindi diciamo Milano, Bologna, Roma esatto, Torino, quindi nelle città più industriali, e questa è una delle caratteristiche dei GAP. Accanto ai GAP vengono create nel luglio del 44 le SAP, cioè le squadre di azione patriottica, con l'obiettivo di affiancare i partigiani, questa volta della montagna, sia nella città, in alcune azioni. Che cosa fanno le SAP? Sono una sorta di civili armati che difendono le fabbriche, difendono la popolazione dalle razzie dei tedeschi, dei nazisti, e difendono le manifestazioni. Questi molte volte compiono azioni di sabotaggio e disarmano i nemici. In particolare le SAP emiliane nascono per costituire e armare dei gruppi che non operavano nelle zone idonee alla guerriglia, ovvero la montagna, ma che si trovavano, come appunto i GAP modenesi, a vivere in luoghi dove le difese naturali banalmente mancano. Nella pianura manca la montagna, quindi è molto più difficile compiere delle azioni di guerriglia. Abbiamo detto che di solito i gappisti sono di città, ma a Modena, cioè anzi nella Bassa, il gappismo assume delle forme autoctone, possiamo dire, un po' particolari. Questi gappisti, che diciamo di campagna, sono largamente aiutati dalla popolazione civile. Ma per entrare in questo argomento così interessante e particolare abbiamo con noi Chiara Lusuardi, collaboratrice dell'Istituto Storico di Modena, che ha scritto nel 2016 il bel libro Gappisti di Pianura, la 65ª Brigata Walter Tabacchi a Modena, edito da Mimesis Edizioni. Il libro di cui ci parla Chiara narra delle vicende della Walter Tabacchi e delle vicende dei gap modenesi tra il 44 e il 45. Adesso, prima di intervistare Chiara, ci sentiamo una canzone. Allora, entriamo in musica, rimaniamo in ambito locale, ovvero sia emiliano. Andiamo a ripescare nell'arco di questa puntata qualche canzone degli Emili Collettivo Musicale, un gruppo di Parma molto, molto simpatico che io avevo conosciuto nel 2009 come Emily County Folk, adesso non ricordo. Ma avevo avuto il piacere di invitarli alla Festa della Libertà dei Popoli ad Ancona. Hanno pubblicato, stanno continuando a pubblicare della bella musica. Ci sentiamo qualche loro pezzo estratto dai loro album. La mia casa l'ha portata via il vento, i miei campi li ha portati via il fuoco, i miei figli l'uomo, l'occhio con la lingua l'ho rubato, il cielo con la mano, coi pensieri e le azioni ti ho tradito, solo il mio cuore è restato, solo il mio cuore, solo il mio cuore è restato, solo il mio cuore che fa. Sabato pomeriggio, e Oggi abbiamo una gradita ospite che è Chiara Lusuardi, l'autrice del libro Gappisti di pianura, la 65ª Brigata Walter Tabacchi a Modena, edito nel 2016 da Mimesis Edizioni. Intanto Chiara, grazie per essere qui con noi questo sabato. Grazie a voi. E noi entriamo subito nel vivo della chiacchierata perché il tempo stringe. Allora, noi nell'introduzione abbiamo sommariamente spiegato le differenze fra GAP e SAP, ma vogliamo sapere da te, che l'hai studiate bene, le caratteristiche più importanti dei tuoi, scusa se li chiamo così ma mi sento di dirlo, dei tuoi gappisti di pianura, cioè quali sono queste caratteristiche che li differenziano dagli altri? Allora, se nelle altre città è molto facile riuscire, relativamente ovviamente in un momento di guerra come era quello nel 43, e riuscire ad organizzare una resistenza armata, una guerriglia armata anche nelle città, parlo principalmente delle città industrializzate del nord Italia, Torino, Milano, Genova, per spostarci poi anche verso città come Firenze, anche come Roma, è molto più difficile riuscire a farlo in un territorio estremamente pianeggiante come quello della pianura padana. Questo per due ordini di motivi fondamentalmente. Da una parte per la mancanza completa di rifugi e di ripari naturali che possono essere appunto forniti da un ambiente montano. E dall'altra parte per l'enorme articolazione delle vie di comunicazione, che sono sia quelle stradali sia quelle ferroviarie. Basti pensare che appunto a Modena passa la statale 12 che collega appunto Modena con il Brennero e che era fortemente utilizzata, largamente utilizzata dalle truppe naziste per scendere appunto in Italia. In più la linea ferroviaria che collega sia Verona e Mantova con la provincia modenese, sia appunto il collegamento poi con Bologna. E anche l'Appennino non forniva poi gli stessi ripari che potevano essere offerti invece dai territori alpini. Questo da una parte. Dall'altra, il primo partito politico che in clandestinità riesce ad organizzare una guerriglia armata e che si fa anche promotore della guerriglia armata è appunto il Partito Comunista, che da quello che nel periodo dell'antifascismo, nel ventennio fascista, era riuscito più degli altri a mantenere un'organizzazione sotterranea, sia perché era quello che prima di tutti si era speso a favore di un'azione armata, mentre altri si erano schierati a favore dell'attivismo, cioè di aspettare la primavera per la bella stagione, quindi condizioni naturali migliori, e anche per l'avanzata degli alleati che nel frattempo era proseguita. Questi due ordini di motivi avevano portato a ritardare tantissimo l'idea di una guerriglia armata nella provincia di Modena in particolare, ma anche a Bologna, inizio più tardi, un po' l'Emilia Romagna vive alcune situazioni di questo tipo. E anche perché la provincia di Modena non è una provincia fortemente operaia come invece sono le città del nord Italia. Quindi il bacino di reclutamento preferito dal PC erano appunto le fabbriche, gli operai, ecco che a Modena non si vede nemmeno un'appetibilità in questo senso. I gappisti modenesi cominciano quindi, si manifestano molto tardi, soltanto nella primavera del 44, con le prime azioni, attentati, sabotaggi, mentre prima era più lavoro di propaganda di gruppi clandestini non del tutto collegati tra di loro, cioè alcuni sì ma non in maniera organica. E, però mentre poi i gappisti delle grandi città del nord purtroppo essendo in una forte clandestinità all'interno delle città non riescono a mantenere collegamenti tra di loro il loro altissimo tasso di mortalità fa fatica anche ad ottenere un ricambio appunto di combattenti dall'altra parte, e poi appunto la scelta di praticare attivamente violenza nei confronti di un nemico non è scontata da parte di questi combattenti, quindi piano piano purtroppo gli artisti delle città del nord vedono un restringersi parecchio le loro fila. Dall'altra parte invece i gattisti modenesi piano piano riescono ad intrecciare collegamenti tra di loro e fanno loro bisogni e richieste della popolazione che viveva in condizioni sempre peggiori dovute appunto al peggioramento della situazione della guerra. Quindi si fanno tutori delle esigenze della popolazione, soprattutto ovviamente contadina. Nell'estate sono i principali promotori soprattutto della battaglia della Trebbiatura, che ha lo scopo di ritardare quanto più possibile la Trebbiatura del grano, che ormai era destinato agli ammassi, ma questi ammassi erano poi destinati in larga parte al rifornimento della Germania, quindi era tutta produzione portata all'estero. E poi in autunno la lotta contro i raduni di bestiame, anch'essi, e dei formaggi, anch'essi destinati al rifornimento delle truppe. Questo primo fronte di attività fa da collante con i bisogni intrinseci della popolazione, che quindi vanno a sostenere, ad avere un moto di solidarietà molto forte nei confronti di queste formazioni, perché ormai si può quasi parlare di formazioni partigiane che vengono appunto dai cittadini, dai contadini in questo caso, aiutati nel reperimento di diario, di cibo, di rifugi e di ripari nei mesi più freddi e più ostili, fino a fare veramente da tramite nella trasmissione di informazioni anche. Senti, scusa, ti interrompo, però volevo chiederti una cosa, visto che queste storie che stai raccontando richiamano in parte anche quella che è stata l'esperienza di Gap nella provincia di Bologna, volevo chiederti una cosa: qual è stata, diciamo, una specificità che tu hai incontrato nello studio di questa 65esima brigata Gap Walter Tabacchi? E in più volevo chiederti come si può relazionare il tuo lavoro, la tua ricerca su quello che è il dibattito storiografico sull'esperienza gappista, che è una delle parti dell'esperienza partigiana più discusse a livello pubblico. Allora, il legame con Bologna è assolutamente forte, nel senso che la brigata Walter Tabacchi non nasce in quanto brigata, ma nasce come distaccamento, come settimo distaccamento della brigata bolognese. Quindi ecco, soltanto in un secondo momento, quando l'afflusso di partigiani è veramente forte, si arriva a parlare di 250 combattenti più o meno, quindi cifre veramente di formazione di montagna, il distaccamento Walter Tabacchi ottiene, diciamo, l'autonomia a brigata modenese. In effetti subito viene anche comandata da Italo Scalambra, che è un ferrarese, quindi l'articolazione è comunque regionale, a livello regionale. Il legame con Bologna è abbastanza forte, soprattutto appunto in un primo momento. Anche Bologna muove ingenti numeri di combattenti, ricordiamoci appunto anche la battaglia di Salame, che è emblematica, ecco, di una battaglia che si svolge in pieno centro. Quindi non ci sono delle differenze abissali. Forse, ecco, la battaglia, le formazioni bolognesi sono più, diciamo, si muovono di più nel centro cittadino. Invece Modena vive delle articolazioni molto forti in tutta la parte pianeggiante della provincia, perché di questo stiamo parlando. I punti più forti sono ad esempio nel Carpigiano e nella Bassa Modenese, che sono le parti a nord della provincia di Modena, ad esempio, per renderci conto un po' di com'è la dislocazione geografica. E sulla storiografia mi ripeti la domanda? No, volevo chiederti, cioè, dei gappisti se ne parla, nel senso che sono fra le figure di partigiani, combattenti più discusse, anche per quel rapporto con la violenza più diretto, fra virgolette, che citavi tu anche prima, e questa difficoltà a convivere con un'azione più, più fredda, adesso faccio fatica a trovare il termine adatto, vengono spesso tirati in ballo come il volto cattivo della resistenza, fra virgolette. Io volevo chiederti come ti collocavi, come hai collocato la tua ricerca rispetto a questo dibattito molto ampio che è stato risollevato anche negli ultimi anni dalla pubblicazione del libro di Santopeli, Storie di Gap. Io credo che il libro di Santopeli sia stato assolutamente un discrimine importantissimo per quello che riguarda la storiografia sui gap. Lui è tanti anni che si occupa appunto di questo tipo di studio, e sicuramente io ero già in contatto con lui, quindi ci siamo un po' scambiati anche determinate idee per quello che riguardava l'interpretazione del gappismo all'emiliana, come l'ha poi ribattezzato nel suo Storie di Gap. Però è stata una strada lunghissima, nel senso che come ha rintracciato sempre anche lui, la storiografia sui gap vive delle grandissime mancanze già all'interno del percorso della storiografia della resistenza, un po' perché appunto c'è quest'idea di non voler porre in primo piano una violenza che non è più una violenza come scontro armato, come poteva avvenire in montagna tra formazioni, ma una violenza che avviene sul vicino di casa, che avviene a sangue freddo, in modalità strategiche organizzate in ogni particolare. E il Partito Comunista nel secondo dopoguerra cerca di riallacciare i rapporti, quell'unitarietà antifascista che non permette di far emergere invece le diversità che hanno connotato il suo modo di condurre una guerriglia armata. Quindi poi c'è l'altro grossissimo discrimine, che è stato quello di paragonare la guerriglia armata dei GAP a quella del terrorismo rosso, quindi anche qui è stata operata un paragone, quindi un silenzio da parte della storiografia della resistenza su appunto studi scientifici che invece potessero portare ad un'interpretazione veramente fondata su quello che è stata la guerriglia armata del gappismo, che nulla aveva a che fare col terrorismo rosso, se non un rimando retorico molto molto forte, anche anche immagini, ecco. Esatto, i GAP di Feltrinelli mi vengono in mente, hanno non la stessa sigla, l'acronimo è diverso, però hanno la stessa sigla. Esattamente. Esatto. Quindi c'è questo grossissimo collegamento, per cui il gappismo resta sempre sotterraneo, ecco, nella storiografia della resistenza, se non inserito invece in altri contesti di studi locali che sono fioriti negli anni del dopoguerra, oppure analisi, ecco, di più largo raggio, opere collettane, ecco, la stessa storia. Diteci chi sono i diversi della terra. 100 penne sopra il capo, di penne neanche una. Memoria, montagne, amore, guerra, passione. Passione ci affratella. Sacri monti sorgono a nord-ovest, corron come cani le farfalle. Sole rosso di buon mare. mattino, porta coraggio soffia su di noi, riparaci, ai ai ai ai, proteggici, ai ai ai ai, che oggi dobbiamo stare a cuor leggero, in faccia a chi bisonti sterminò, per evitare che questa terra antica smette d'improvviso a respirare sui popoli, ai, ai, ai, ai, oh. Nei popoli, ai, ai, ai, ai, oh. Sui popoli, ai, ai, ai, ai, oh. Nei popoli, ai, ai, ai, ai, voci compassionevoli e indignate salgono oggi dalle Black Hills. I cercatori d'oro sono arrivati insieme alle loro logiche a profittare. Ma questa resistenza è la nostra vita, azione senza parole, forma antica. E se c'è ancora un cuore che comprende che il tempio sacro perché non si vende, portatelo, ai ai ai ai, oh. Alzatelo, ai ai ai ai, oh. Portatelo, ai ai ai ai, oh. Alzatelo, ai ai ai ai, oh. Che non ne resterà un fiore, non una nuvola che sia libertà, e non avremo il tempo, mandrie infuriate giù nella valle, e non ne resterà un segno del cielo che potremo capire, non una mano di fratello da tenere come fratelli, ai ai ai ai, oh. Io sono un altro te, ai ai ai, oh. Tu sei un altro me, ai ai ai, oh. Come fratelli, ai. Resterà un fiore, non una nuvola che sia libertà, e non avremo il tempo, madre infuriate giù nella valle. E non ne resterà un segno del cielo che potremo capire, non una mano di fratello da tenere come fratelli, ai, ai, ai, ai, oh. Io sono un altro te. Ringraziamo ancora Chiara Lusuardi che è stata con noi per presentarci il suo Gappisti di pianura e parlarci dell'esperienza di Gap a Modena e dell'esperienza dei Gap, particolare forma della resistenza. E siamo in chiusura di puntata, per cui andiamo agli appuntamenti. Sì, allora, il 1° maggio al Circo Anarchico Berneri in piazza di Porta Santo Stefano ci sarà il pranzo sociale, momento di festa, festa dei lavoratori e delle lavoratrici, qual è un ottimo momento per mangiarci qualcosa. Sì, e per ascoltare le note di David e Margherita, due amici di Vallun che suoneranno accompagneranno musicalmente la giornata. Esatto, ancora resistenza all'Unipol, al cubo dell'Unipol c'è la mostra, la bella mostra Bologna, la liberazione a colori, fino al 5 maggio con foto inedite a colori appunto della liberazione dei 20 mesi dei Gianni. Andiamo con un altro appuntamento, questo di venerdì 5, quindi venerdì prossimo. Biographic Novel Day è un evento dedicato alle biografie e autobiografie per immagini a fumetti che si terrà a VAG 61 in via Paolo Fabbri dalle ore 18 all'1, quindi è un appuntamento del tardo pomeriggio, in cui saranno presenti fra gli altri Sara Colone, Davide Reviati, Sergio Rossi, Cisco Sardano, Giulia Argnani, e in cui si parlerà per l'appunto di biografie a fumetti. È molto interessante, in particolare poi per prepararvi all'appuntamento non possiamo che consigliarvi i libri di Sara Colone, che ha illustrato un bellissimo fumetto, In Italia sono tutti maschi. Ultimissimo appuntamento, il 2 maggio XM Movie Activism, cioè un festival di cinema documentario on the road. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito di XM o sulla pagina Facebook. Bene, anche per oggi è tutto, appuntamento alla prossima settimana da Frey e Olga. Ciao!